quando le vecchie domande per essere delle nostre città sono il primo segno, sono il primo fondamentale che vanno a rendere tutto il progetto, soprattutto in altre aree interpretare per i tempi della passione di morte e risurrezione di Cristo. Devo subito dare un momento che mi viene presentato al capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, capitolo secondo del primo Vangelo di Giovanni. Tre giorni dopo, c'è uno sposamento a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Nel frattempo, molto avanzato il numero, la madre che si è molto triste, non ha molti figli. E sua moglie rispose: che ora faccio con te, o dormi? Non è ancora giunta la mia ora. La madre mi chiese: fate quello che mi dirà. Voi andate a dare la sicurezza della comunicazione di Dio. In quanto le vecchie domande per prendere il tratto delle nostre città sono il primo segno, sono il primo fondamentale che vanno a rendere tutto il progetto, soprattutto in altre aree interpretare per i tempi della passione di morte e risurrezione di Cristo. Devo subito dare un momento che mi viene presentato al capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, capitolo secondo del primo Vangelo di Giovanni. Tre giorni dopo, c'è uno sposamento a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Praticato ai nostri angeli di tutti i suoi difetti, nel frattempo, molto avanzato il numero, la madre che si è molto triste, non ha molti figli. E sua moglie rispose: che ora faccio con te, o dormi? Non è ancora giunta la mia ora. La madre mi chiese: fate quello che mi dirà. Voi andate a dare la sicurezza della comunicazione di Dio, o dovete continuare a muro per la mente. E con tutti i suoi doni, e non venite d'acqua e sale, e la continuano per la mente. Disse loro di nuovo: ora scendete e portatemi al maestro di Italia. E essi mi ricordavano. E con lui ha saltato l'acqua di Salvatino, un maestro di Italia, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapeva per certo che aveva raggiunto l'acqua, però lo sposo e gli disse: tutti servono al principio e il buono. E quando sono morti, vengono meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il meno buono. Così Gesù viene in mente che sono il capo di Giovanni di Galilea, ma è nel suo la sua donna, e sono dicendo che vengono lui. Dopo questo fatto, discese ad Capernaum insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono là su un po' di giorni. Una gran parte del suo volta del Vangelo non solo di quello che va a di tutti i padri di Vangelo, ed è anche uno degli episodi più prolungati. I tre Vangeli sinottici non conoscono a questo episodio. È avvenuto a Cana di Galilea, quando il chilometro a nord di Nazare. Una parola per aumentare gli episodi. La celebrazione musicale in alcune chiamate durano 7 giorni, 7 giorni di festa, almeno se la scuola era sul punto di matrimonio, se la scuola era molto alto e buono di vivere. comunque sempre una festa prolungata, una festa non solo di coloro che erano strettamente invitati, ma di tutti i privati di tutti i paesi. Ora la domanda adesso in gran parte dipendeva dai loro risultati, in gran parte di risultati che dipendeva da se stessi, della parassolità alla destra, soltanto le persone di natura di ricorsi. Guardarsi che da voi possiedono, come lo chiedeva, anche a quanto di molto meno di questo voto, fatto stato a un certo punto di bene a mancare la vita. E come avviene molte volte nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù viene a perdere una situazione terribile, una situazione negativa, viene semplicemente per la vita. Questo capita molte volte nel Vangelo secondo Giovanni, non è riferito solo al grande avvenimento a Provino, ma anche di Vagno e Marani. Ora ci sono sicuro che per me. Anche qui Maria avverte un atto divino, senza suggerire che la parente prenda di sensibilità. Che significato ha questo bisogno? Normalmente si insiste su due o tre punti di teoretica per fare il danno. Anzitutto, Gesù con la sua presenza ha santificato la loro mano, ha santificato il matrimonio. Ma secondo il significato che viene sottolineato, la capacità di mettere da sé la volontà di intercessione della donna. Altre volte in cammino viene sottolineato un altro aspetto, Gesù libera l'uomo da una situazione di imbarazzo, di autenticità. Non sono capaci di assumere di conferma. Adesso manca un vero elemento di questa festa. Gesù libera l'uomo da questa situazione di imbarazzo. Ora, prima di dire se queste tre interpretazioni sono sufficienti, sono complete, penso che valga la pena lasciarci guidare dalla giusta stessa. Difatti, alla conclusione del piano di attimo, un senso ci va a guidare per interpretare. Dice così nella conclusione, al versetto 11. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli in mezzo ai figli. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli. La traduzione del corpo non è completata. Giovanni non parla di miracoli. Abbiamo visto già nel primo incontro che Giovanni non era la parola di miracoli. Rivelazione di Gesù, ciò che lo interessa non è principalmente un rapporto di straordinario. Ma la fine di Gesù da lui vengono chiamati segni. E anche qui, l'Evangelista dice che a Cana di Galilea al campo di Cristo. Quindi è un fatto che va interpretato ancora un momento come un atto che rivela chi è Gesù. Comincia, possiamo dire con parole nostre, vedi con me la manifestazione di chi è Gesù. Quindi, a Cana di Galilea abbiamo un segno che occorre interpretare. Interpretare questo segno vuol dire capire di più la persona di Gesù. Poi c'è un'altra parola. Viene molto ai suoi miracoli. Giovanni è ancora più preciso. Non dice niente di mantiene, ma chi la è dei segni. A te non significa i segni, ma significa un modello. Se manca un segno che poi verrà continuato da altri fatti nel Vangelo. anche se non mi manchi la chiave per capire tutti gli atti che comunque avrà, tutti i suoi gesti di liberazione. Noi abbiamo perciò un atto fondamentale, archetico, diciamo in italiano, che poi verrà ulteriormente sviluppato, approfondito nel corso del Vangelo. Non è quindi soltanto un primo, perché l'inizio serve, ma è un primo segno perché diventa un aiuto e un momento, un esempio per comprendere gli altri. E nel senso è un scritto così, manifestare la sua gloria. Con questo segno Gesù cominciò a migliorare e a conoscere la sua gloria e il nome del Presidente del Cristo di gloria significa il suo corpo della sua umana, la sua importanza, la sua presenza della sua umana. E i suoi discepoli credettero in lui. Il nome in greco è Anton. Colpirono con un momento di attenzione. Si unirono con lui, tornarono con lui nella nuova età, aderirono veramente alla sua persona, fecero affidamento a lui e passarono anche internamente al suo conoscenza. Scendono tutti e tornano a trattare. Quindi già questo vestito del Cristo ci fa capire che il fatto comunque la patata è un segno fondamentale per capire chi è Gesù. Facciamo il secondo passo, come capire della questo segno. Cosa significa questo gesto? Come fare per trovare il significato? Non c'è altro che prendere una varia situazione e analizzarne come l'altra specificità. La prima situazione che emerge ci troviamo con la conoscenza. Ora sappiamo come il primo aspetto è un'immagine fondamentale in tutta la Bibbia. Un'immagine che Gesù tante volte ordina e tante volte realizza, ma sembra trasparente da parte di Gesù. Mangiare insieme significa trovare un gusto anche di cuore dell'anno precedente su di me. Mangiare insieme è un gesto di solidarietà, di stima, di perdono, di amicizia, di amore, di comunione. Gesù quindi comincia a rivelarsi come il comune che vuol dire un rapporto di stima, di amore, di comunione con gli uomini. Accanto al momento c'è un altro tema, l'altro simbolo di Dio. Il Dio Giovanni sottolinea due cose. La sua straordinaria abbondanza e la sua qualità sorprendente. L'abbondanza, se è un giorno di chiesa, componente oltre le loro progetti, ma di tutti 600 libri. La qualità superiore è messa in evidenza dal maestro di tavola. Anche questo è un tema fondamentale della Bibbia. Il primo punto di sorte è ricordato esplicitamente per la morte. Nell'Antico Testamento si parla molto di frequente del Dio, cioè quando i profeti tentano di descrivere la situazione serena, la situazione felice dei tempi messianici, ricorrono nuovamente a quei frati, abbondanza di vino, abbondanza di grano, abbondanza di fuori. Molte volte è ricorduta questa immagine della abbondanza di vino. Sarò con l'Odea 14, versetto 6, versetto. Sarò come un'ana per Israele. Si spanderanno i suoi germogli. Avrà la bellezza del vino e la fragranza del vino. Mi torneranno a sedersi la mia ombra tra il mio nome e il grano, continueranno le vigne, la voce, cuore, il vino e il vino. Cito un altro passo soltanto, dopo la leggenda a mano, capitolo 9, versetti 13 e 14. Ecco, verranno giorni del Signore, in cui chiama sono un altro pignete, pignete prima di Dio, chi vince a lunga con chi getta il seme, da lui stenderà il vino nuovo, e ora giù per gli uomini. Quindi i profeti avevano preannunciato questo tempo del Messia, come un tempo caratterizzato dalla comanda del vino, e prima della Bibbia è sempre il giorno, simbolo di festa, simbolo di fraternità. Appunto che due libri apocrifi, dove Giovanni ha fatto da Seno, il libro di Seno e il secondo libro di Paolo, descrivono il tempo di Messia come un tempo in cui erano unite a mille tranci, ogni trancio mille grappoli, ogni grappolo mille agiti. Che è una maniera per sottolineare l'abbondanza del vino che accompagnerà i tempi del Messia. Oltre all'abbondanza viene sottolineata la qualità. Lo stesso maestro di tavola, il direttore di mensa, dice che questo vino nuovo è migliore del precedente. Durante che ci sono i nostri di vino nuovo, e anche per loro per qualità avrebbero stagionato. Già un Vangelo di loro per questa immagine, che Gesù porta il mondo nuovo, porta una novità che non può essere contenuta negli altri vecchi, porta una novità radicale, una novità completa e superiore. Il nuovo oro non significa semplicemente il nuovo oggetto di più giovane, ma il nuovo oro significa diverso, superiore per qualità. Allora facciamo un secondo passo, abbiamo visto che siamo venuti nel parchetto e nel video, però tutto questo è una comunicazione. Non abbiamo potuto leggere cosa significa questo capitolo e questo libro. Siamo in un contesto diverso. Come anche qui, nel tempo mentale della letteratura greca, il tema è abbastanza facile. Ma in modo, nel tutto l'Antico Testamento, è preso come un'immagine di un segno da una porta che percorre la vita del suo popolo. Il matrimonio è un simbolo efficace dell'unione profonda e fecosa che c'è tra Dio e la sua comunità. Basta ricordare il profeta Mosè. Ebbene, se avete osservato, nel piccolo accordo della nostra vita, i due sposi praticamente restano la propria amore. E non è così, non per direttamente lo sposo, ma con sua vicina a lui, ma è in tavola a poco di vita, dove proviene da lui. Ma lo sposo, la sposa, non sono per lui, ma per lui. Perché? perché questa è la nostra vita. A parte di Carmela c'è l'archetto sereno. Nel momento il prototipo l'archetto di segno. Comincia con la vita di Carmela. E lo sposo tornato è Gesù, la sposa tornato l'altro sono i discepoli, che dopo l'episodio credettero in lui, cioè a venire da lui, e con lui dicessero ad abitare nella casa. All'Evangelista Giovanni, cioè mi interessa principalmente la situazione imbarazzante di quello che la si trova nell'anziano non ci interessa. Ma l'Evangelista interessa sottolineare che in questa occasione Gesù ha compiuto un segno, un gesto, con il quale ha rivelato se stesso, come sposo autentico, come colui che è venuto sulla terra per iniziare un rapporto nuovo di amore con l'umanità. A casa Gesù viene la sua volontà, il suo desiderio e la sua immensa capacità di donarsi, di unirsi al cuore. Ma bisogna di casa Gesù non è soltanto una benedizione di non cambiare, ma è la rivelazione di Gesù stesso. Gesù si è rivelato con il sposo, e il gruppo di discepoli che credono in lui è la comunità, la sposa, che aderisce a lui, un movimento molto profondo del greco, che dice è il santone, credente non aderente a lui, e poi vanno a coordinare insieme. Vedete la nostra vita. Il simbolo del matrimonio dell'unione di Gesù con la comunità è normale nei padri della Chiesa. Tra tutti cito naturalmente Sant'Agostino, il quale ha commentato l'episodio della nostra vita proprio in martedì dopo la prima meditazione della stessa ricorrenza di ieri. Così sono ospedale. Il Signore nel capo le nozze di Serena. Che cosa c'è di strano di Serena le nozze di quella casa? Lui che è venuto a nozze in questo mondo. Se infatti non fosse venuto a nozze, non avrebbe visto la terra la sua sposa. Il Signore ha una sposa che egli ha detto con Santo Spirito, a cui ha dato il regno lo Spirito Santo. Quando è subito, il prego è la sposa. Il segno della vera dell'anima è il tempo iniziale, dove egli diventa il capo della Chiesa, e dove si veda come lo sposo dal suo regno iniziale, come aveva chiesto la sua vita. Gesù è uscito dal regno iniziale con la sposa, e il comunicato viene fatto alle nozze. Gesù viene anche lo sposo. Precedentemente Giovanni aveva detto nel suo Vangelo che su di lui è sceso e si posa lo Spirito, le mani dello Spirito. Gesù sposo porta il nome di nozze alla sposa, che è il nome di nozze di porta. Prima di questa sposa aveva l'acqua della presentazione, sei usare di questa per una qualificazione per i veri. Prima la sposa aveva questo insieme nella stessa funzione, nei venti, nei quali tentava in qualche modo di prepararsi a questo modo, rendersi sicuro. Queste vite esprimevano il suo desiderio di purificazione, era un segno della sua volontà di migliorare. Ebbene, a questa acqua, Gesù sostituisce la donna del Dio. Un verso d'acqua. Non legava semplicemente una purificazione esterna, ma va come si deve fare. Non chiediamoci troppo in fretta di cosa essere il momento. Ma Dio è solo un giorno di speranza della vita, di fecondità, di amore. Semplicemente richiamandomi all'altro grande Vangelo, questo anche sicuramente da fare, vorrei notare la somiglianza verbale. Mi adorà sei già di pietra per la purificazione dei piedi. Il quarto domenico da fare, lì c'era il corpo delle donne, lì c'erano sei già. In un'altra circostanza c'era il corpo delle donne, tutte le realtà che in qualche modo diventano purificazioni. E al posto delle sei già di pietra per la purificazione, Gesù torna il senso anche per il nostro incidente. Al posto dell'acqua che torna dal posto di una donna, dice che lui è disposto a donare un'acqua che non ha più fatto il nostro bene. Questo è un significato fondamentale per il discorso. C'è un altro significato il maestro stabile. Egli svolge il ruolo di testimone. Riconosce la qualità eccezionale del dono. Questo vino nuovo non è un vino normale da pasto, meno che meno per condurre il pasto, quando altri sono umani simili. Riconosce il ruolo eccezionale della salvezza che Gesù porta, e non ci sarebbe sicuro che non si può vedere. Questo maestro di tavola è un paradiso di tutte le autorità di Dante, di tutti i campi di origine che vogliamo usare la vita. Riconoscono che Gesù ha dato un fatto straordinario, che ha aperto il nostro agito, però che sanno la presenza a fatto di essere genere. Non sanno da dove venga questa persona. Non intuiscono la sua origine misteriosa. Questo tema comunale a tramite di un'area di sicurezza che è stata rivolta alla Chiesa, questo tema comunale viene ancora proprio nel giorno di oggi. Subito dopo la giornata, la comunicazione del Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Gesù, e il proseguimento del tema matrimoniale, hanno ascoltato il tema matrimoniale per promuovere la faccia del genere. E non introduce la comunitaria con la comunità. Ma subito lascia capire che questa carta rettolata non è un beneficio materiale, questa carta rettolata è storico, distrutto e risuscitato. Dopo tre giorni non risusciterò. Siamo la notte di Dario, che noi ci vediamo e ci vediamo in greco e parte di questo regola, nel terzo giorno. Nel terzo giorno che poi la comunità che si chiama ormai vediamo anche la finalità di giorno di Pasqua, di giorno della risurrezione. A questa comunità, non è più sufficiente il tempo costruito nelle loro modo stupendo, nuovo nella mia vita del mondo, e poi nel sacrificio di Dio, il tempo del cristiano e del tempo di Cristo di Silenzio. Ma legato a casa di nozze che Gesù fa la comunità e questo tempio. Poi è stato successivo nel primo atto, nel Vedeo, nato di nuovo, rigenerato tramite l'acqua e lo spirito. E in questa comunità si entra, questa comunità diventa seconda, comunque la nostra propria. È l'acqua vivificata dallo Spirito che dona questa comunità buonamente, e viene descritto nel verso da tutti, vedi, e si può entrare a qualunque grado. E poi terminato l'episodio di Giacomo, riappare in scena il Battista, nel quale dice: non sono io il Cristo. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico di uno sposo che è presente in sposa è l'unico che gioca la voce dello sposo. Ora questa mia gioia è costruita. Egli deve crescere, io credo di sentire. E partita commenta: lo sposo non è lui, lo sposo è Gesù. E il Battista è soltanto l'amico delle cose. E da questo momento l'amico fare tutto lui, non vuole essere stato stendio. Infatti il suo oggetto è il massimo di Gesù. E Gesù che lo sposo deve crescere, è lo stesso verbo della prima parte della Bibbia, crescendo per il Signore. Gesù quindi è presentato qui dal Battista come lo sposo. Il Battista commenta stupendamente quello che sono del dramma e la purificazione del tempo e la presenza che si presenta al suo potere. Da qui avanti Gesù è lo sposo e il Battista ne è contento. Egli è l'amico che cercava di preparare la sposa alla mandola, ma adesso che ha il vino nuovo, è utile con il rito di questa persona che è stato scogliere. Approfondiamo del momento di questo episodio. A metà cena, nella conosco della madre, Gesù all'opera del momento di andare la parola ora. Non è ancora diventata la parola. Nel futuro di precedenti abbiamo visto che tutto il Vangelo di Corani converge verso Roma. Roma è quella della morte e della risurrezione di Gesù. Roma è in cui il volto del mondo questa potenza dell'amore. L'ora in cui andare a uomini il peso di importanza della libertà di Dio, il peso di importanza della loro esistenza. Ebbene, Gesù, dando inizio a questo tema, si comincia a Roma. Non è ancora giunta la nostra vita. Questo versetto non è facile da spiegare, in quanto normalmente si dice già la prima, non è la prima, la prima ora, che non è il tempo. Dopo però non è la prima, non c'è, non è il tempo, non è la prima. I commentatori moderni ricordano alla leggenda di Costanti. Le parole della prova avevano detto perché infatti come il tempo non posso la vita della parola. È una domanda, non è ancora giunta la parola. Gesù cioè invita a pensare, a riflettere, e nel quarto Vangelo abbiamo molte di queste domande. Alle facce verrebbero creati nella nostra testa che cosa distingue il mondo occidentale, a rispondere subito sì o no. Per esempio, ci sono anche molte volte delle domande che non ti permettono di rispondere né sì né no. Ma ti obbligano a vedere i quattro fondamenti. Tanto sì. Capitolo 4, mentre quanto lo dice fa. Non sono arrivato a sicurarmi. Se tu fosse curato le nostre parole di notte, ci hanno parlato questo notte, di vento uno di questo tipo di vento, di essere più grande, al 200% no, perché non è nessuno di noi per scoprire l'ultima degrado. Ma è tanto sempre così, c'è pure di qualcuno di cambi. Quindi è una domanda che è un'unica alcune riflessioni. Allora ricordiamo gli altri molti esempi, capitolo 7, versetto 35. Andate, non è mai stato andare di solo che non potete trovare. Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci, a fare studiare i greci. Gesù sta per andare tra i greci, ma devo vedere no, perché non fanno tutto della Palestina. Non proprio non fa sì, perché se i greci non sono loro, hanno dato i greci, non fa studiare. I greci sono come loro che non vogliono. Un ulteriore esempio potremmo, non si può vedere avanti, otto e due. Forse si ucciderà da un lato che dice dove va il nuovo e dove si deve morire. Forse si ucciderà. Nel senso negativo che ha la parola suicidio, da lui non si è suicidato. Ma nel senso positivo, io ho il potere di dare la vita e di riprenderla. Sono il buon pastore che dà la vita per il suo debole, il potere di vita e di suicidio. Quindi, abbiamo molte volte, non è vero, dicevamo, delle domande alle quali non bisogna rispondere troppo in fretta. Così anche qui a Cani, non è ancora tutta la mia ora. Non penso che non scusate, no, non è nulla. L'ora ci sarà sul Calvario, ci sarà nell'ultima cena, quando passerà la bocca di Dio, con quello sarà il primo veramente povero. E ora in altro senso l'ora già sta per scusare. L'ora già inizia. L'ora qui già per lo meno viene la vista. Sta per coprirsi ora, sta per ascoltare. Non è più lontana, anche se non è proprio arrivata. E per altro modo, consiglio che rimanga direttamente alla finestra del Dio, all'ora della croce, quando farà lo spirito. Allora, quando la comunità darà la pienezza della salvezza e la pienezza della liberazione, non è soltanto l'inizio della liberazione. Un altro pensiero, diciamo che credo di avere un nuovo rapporto di fatto, è un ruolo di finalità di questo evento. La Bibbia è chiamata quattro volte. Due volte che dice la madre di Gesù e due volte semplicemente la madre. E non è chiamata quattro volte. Il quattro lo dice meglio perché è uscito al mare quando Gesù consegna la madre al discepolo anche un quattro volte è chiamata la madre di Gesù. La Bibbia interviene. Le donne stavano all'interno della cucina e quindi Carnale, tutto il significato positivo e carattere del carnale, sì, deve rendersi conto che stanno per iniziare un buon rapporto. Finora è stata la mamma terrena di Gesù, ora deve passare al ruolo di donna madre, della regina madre. Deve diventare più che la madre di Gesù, la madre della comunità. Deve iniziare un rapporto nuovo, una nuova anche per lei. Se ricordate, nel Vangelo secondo Luca, Gesù aveva fatto un accenno del genere alla Maria e a Giuseppe e a Giuseppe. Quando lo cercano e ancora lo ricordano, non sapevate che io devo rifarmi delle cose che fanno lui, e non devo concludere che non è così. Invece Giovanni ci permette di fare un passo avanti nel percepire, nel cogliere la maturazione che vende a tutti i cittadini. Quando Gesù la fa riflettere, qual è la relazione tra me e te, Maria capisce che ormai il suo compito è portare a Gesù la comunità, diventare madre della scuola, e quindi va dai servi e gli dispone a una voce di tanto. Passa quindi dal ruolo di madre secondo la madre al ruolo di madre della comunità, madre di discepoli. E anche per noi questo è un inizio, perché la maternità piena nei confronti della Chiesa dei discepoli avverrà anche per lei quando l'ora di Gesù sarà al momento dominante, sul Calvario, rivolto al discepolo che amava Gesù disse e continuava. Quindi qui Gesù comincia a chiedere a Maria che approfondisca il suo ruolo e che lascia che le sue relazioni con lui vengano non cancellate, non diventano distanti, ma vengano approfondite. Entrano ancora con più ricchezza nel progetto della salvezza. Ora finora era stata lei a dare la vita a Gesù, ora quasi è lui che dà a Maria un buon cuore, la chiama morte. Sarà chiamata donna di tutti i genitori perché è stata presa dal uomo. Maria è chiamata donna perché questo ruolo di regina madre si lo dà l'uomo attento, l'uomo Gesù. Quindi a Cana Maria è invitata a prepararsi al momento del Calvario dove celebrerà definitivamente le sue nozze. E prima di terminare vorrei notare come questo cambiamento di relazioni che esiste tra Maria e Gesù supera il caso personale di Maria. Maria deve iniziare relazioni nuove con Gesù. Prima ho detto in quanto passa da mamma di Gesù a regina madre, madre della comunità, ma deve iniziare una relazione nuova anche per essere un modello di questa comunità, per essere l'esempio del cammino di Gesù in questa comunità. Cioè, Maria, quando chiede a Gesù di intervenire, è quasi ancora rappresentante del popolo giudaico, che chiede dei segni, chiede dei miracoli, chiede azioni miracolose, popolo giudaico che è attaccato ancora al meraviglioso. Gesù invita Maria alla profondità. Le azioni devono venire dette in profondità. Più che adesso occorre attaccarsi a Gesù, mio appiattimento, quindi io ho detto di una comunità ebraica che dovrebbe essere Cristo, e da insieme dovrebbe meditare sul suo nuovo rapporto con Cristo. Diventa un parte della comunità, la quale non deve limitarsi, la comunità cristiana, a chiedere a Gesù soltanto una liberazione umana, materiale, non fa brutta figura perché fare una festa, ma deve passare a un rapporto culturale di tutti i mondi. Il vero marco della vita lo capisce, non è che al fuori dall'imbarazzo di questi, il vero marco è Gesù che si torna al mondo. E da noi è giusto da molti approfondimenti di realtà secondo la felicità, volendo della libertà, volendo di quella ebraica che si è convertita, di quella cristiana che vive prossimamente a profondere, perché c'è dietro che si vede che il segno è stesso, senza arrivare a capire che questo è il mondo. Una nuova relazione, una nuova rapporto, come di abbandonarsi a Dio nella fede, nella vivenza, nella provvidenza e tanto. Per questo motivo sarà molto importante l'arte di Tania. Per questo lo chiama Novento Rossino. Perché non voglio assolutamente la fine di dire che la fine di Dio ci chiama, ci raggiunge, ci eleva alla vita della speranza. Non è che noi ho cominciato a credere, a diventare comunità di Cristo, hanno cominciato a resistere con il potere della scuola e del Dio. Penso che la lettura di questo miracolo, di questo segno, ci possa aiutare a capire un nuovo piano di Cristo che noi abbiamo nella settimana prossima. Dell'obbedizione della Santa Madre di Dio a tutti i bambini, e di Il Cristo non è una cosa, il Cristo moreno, come si fa? Il cuore che è portata in posizione di tutti i relativi nella giornata è passata in questa. È un altro tempo che il cuore di una giornata di questo, è quello che guarda ai giornali, non più ai giovani santi e al mistero di questo, dove non travenendo nella sala dell'ultima cena, sì, vengono la sala delle tue nozze, Signore. Allora vengono le feste dell'anima, e tutti i due amici, ma tutti i testi di tutti i testi, chi è? Grazie.